Bene, bene, bene. Allora, siamo qua in questa terza puntata di Ciò delle Storie. Ciao a tutti. E oggi siamo soltanto io e Gianluca. Umberto non c'è. Non si sa che fine ha fatto. Le ultime sue notizie sono risalenti a questa mattina alle 6:10, probabilmente da Las Vegas. Quindi non si sa che fine ha fatto, ma Abbiamo deciso di andare avanti uguale. comunque abbiamo degli ospiti, abbiamo due ospiti illustrissimi. Uno da Pisa e Anca, cioè Sergio Frumento da Pisa e Anca Diana Axinia da Firenze. Perché alla fine sono due ricercatori dell'università e in questo periodo comunque è una classe, diciamo, di lavoratori, diciamocelo, precari anche loro, come tanti, come quasi tutti e tutte, di cui però se ne parla veramente poco. E a un certo punto, appunto, parlando con loro anche in privato, ho capito che comunque questo periodo di pandemia, questo periodo di Covid, comunque non ha lasciato indifferenti anche loro, anche il mondo comunque della ricerca. E quindi oggi volevo capire insieme a loro come e perché, cioè che cosa è cambiato, che se è cambiato qualcosa, se è cambiato in peggio o in meglio, anche un po' quali erano le vostre prospettive prima di tutto questo e se sono cambiate, che cosa sta succedendo un po' nel mondo accademico, che è un mondo in cui io ci sono uscito da un bel po' e poi comunque non è che ci sia mai sostato con particolare attenzione, ecco, nel mondo accademico. Io invece la Quindi, sento molto vicina come cosa, quindi sono molto curioso. sì, da chi vogliamo cominciare? Chi comincia? Cominciamo da te, Sergio? Vai. Allora, intanto Allora. buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Niente, va bene, in effetti adesso ultimamente è andato molto di moda che ogni categoria a un certo punto dicesse: ma noi siamo stati dimenticati, perché tu e noi siamo stati dimenticati tutti. E i ricercatori, io in realtà non sono ricercatore, cioè nel senso quello diciamo che quando devo descrivere il mio lavoro, magari per semplicità dico che faccio ricerca, ma in realtà il ricercatore è una figura professionale. Invece, sia io che Anca, ancora per poco siamo studenti di dottorato, il che vuol dire dall'altro che ne so, se andiamo in banca a chiedere un mutuo ci ridono in faccia perché siamo studenti. La figura del dottorando nella maggior parte degli altri paesi è un lavoratore con tutti i diritti che ne conseguono, invece noi siamo studenti che prendono una borsa di studio. Siamo anche fortunati a prendere una borsa di studio perché tanti dottorandi non hanno neanche quella. Davvero. Però vabbè, in generale noi siamo stati, credo, i primi a essere bloccati. Io, fin da prima del lockdown, ero venuto a chiudere il CNR, era stata contingentata molto l'attività di ricerca e saremo gli ultimi a tornare. Io, soprattutto, che devo fare esperimenti sulle persone, faccio un dottorato in neuroscienze, per cui devo, che ne so, mettere un elettroencefalogramma in testa alla gente, per farlo devo necessariamente avvicinarmi. Ma infatti, E ma dici un po' che oggettivamente, se io fai? non Sì, faccio i miei esperimenti, non muore nessuno. aggiungi due parole sull'argomento del Infatti, dottorato, sono curioso. non ho capito, scusa. Se puoi Cosa aggiungere fai? due. Cosa fai? Esatto. Cosa studi? Studio neuroscienze e faccio degli esperimenti sulle fobie. Per cui ho trovato dei soggetti aracnofobici e gli faccio vedere stimoli subliminali, fondamentalmente, per vedere se rilevo delle attivazioni fisiologiche anche in risposta a immagini fobiche che loro non sono consapevoli di avere. Ok, abbiamo perso Sergio. Sergio? Niente, i problemi della diretta. Bene, Sergio ha perso il suo turno di parola, adesso non la riavrà mai più. Sì, la connessione però non è Quindi, sempre elitaria, dici te. quindi adesso Anca, te invece? Allora, buongiorno a tutti, grazie Nick di averci invitati a parlare di noi, che comunque rispetto ad altre persone mi sento abbastanza privilegiata perché ho continuato ad avere almeno per questi mesi lo stipendio. Quindi rispetto ad altre categorie, anche di miei coinquilini o persone che aspettano la cassa integrazione dal 10 marzo, ma da questo punto di vista, almeno fino ad agosto, sono pagata. Ok, ma infatti, ma da un punto di vista contrattuale, per esempio, come funziona? Cioè, ci sono stati dei problemi? Allora, io essendo ricercatrice in storia all'European University Institute, che non è legato al Ministero dell'Istruzione italiano, ma è un'istituzione europea con le regole leggermente diverse, quindi io sono pagata in questo momento da Luigino Di Maio, quindi io sono pagata dal Ministero degli Affari Esteri. Contrattualmente non siamo dei borsisti, quindi non è uno stipendio da lavoratori, non paghiamo le tasse, non ci viene contato come contributi anche per la pensione, eccetera. Pochissimi paesi lo fanno, perché ogni ricercatore da me all'università viene pagato per i primi 3 anni dal organismo, un ministero della sua nazione, quindi Spagna, Inghilterra, Turchia, Portogallo, eccetera, e l'ultimo anno veniamo pagati dall'università. Quindi io questo ultimo anno, io sto finendo adesso la mia tesi di dottorato, vengo pagata dall'università fino ad agosto. L'università dice e viene, devono avere soldi per prolungarci le borse, soltanto di 3 o 6 mesi per l'emergenza. È stato chiesto ad ogni gruppo di ricercatori per paese di fare una domanda ufficiale, alla sua, quella che viene chiamata grant authority, cioè ogni paese dovrebbe in qualche modo decidere sui suoi ricercatori. Finora ci sono state delle decisioni, la Spagna ha deciso sempre di pagare un altro intero anno a tutti i suoi ricercatori. Sembra un po' chimerico, ancora non crediamo del tutto, ma sembra che sarà così. E altri paesi come la Polonia ha deciso di fare a casi specifici, magari pagano 3 mesi in più a 4 persone. L'Italia non ha ancora risposto alla mail, quindi non si sa se ci sono ritardi vari, perché ovviamente confusione, cioè ci sono situazioni abbastanza complicate, non si sa forse cosa rispondere, e purtroppo non si risponde. E da un momento che è stata mandata la lettera non ci sono state novità. Ok, e invece per quanto riguarda proprio la ricerca in sé, intrinsecamente, che cosa è cambiato in questo periodo? Cioè, quali erano le tue prospettive prima dell'inizio di tutto questo casino? Allora, io facendo ricerca in Romania, quindi implicando per forza uno spostamento fisico verso un altro paese, comunque in quel momento non si può andare, quegli archivi e le biblioteche sono chiusi. In pratica quello che avevo pensato di fare in estate o in autunno, anche siccome sto finendo, sto consegnando la tesi di dottorato, devo pensare a cosa fare dopo. E ogni tipo di cosa che mi può venire in mente non la posso al momento fare né facendo ricerche in archivio né andando in biblioteca in Romania, perché non è possibile al momento. Ok, quindi sei ferma, cioè finché è tutto fermo, sei ferma anche te, giustamente. Finché è tutto fermo, sono ferma anch'io. Non so come la Romania gestirà la riapertura graduale di queste cose, non so come farà. Non so se ci sarà una carantina obbligatoria di 14 giorni quando si torna da un paese molto colpito, tipo l'Italia. No, abbiamo perso anche Anca. Non riusciamo a finirle, via. No, però la connessione sta facendo da moderatore, potremmo tornare a Sergio a questo punto, visto che... Esatto. Dato che non siamo noi a decidere i turni, vediamo se Sergio è tornato fra noi. Io sono tornato tra voi con il vostro, con il nuovo, con il mio spirito Amen. Troppo bello, però. Allora, Sergio, noi dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti diciamo, alla tua descrizione del tuo progetto di ricerca, sostanzialmente. Sì, il mio Invece il progetto tuo... di ricerca quello è praticamente sospeso e probabilmente non riprenderà più. Io per puro culo sono riuscito a raccogliere comunque un numero dignitoso di dati. Per cui io sicuramente alla fine il dottorato lo finirò con quei dati. Ma perché comunque i tuoi dati, a differenza di Anca, non devono essere reperiti necessariamente all'estero, cioè i tuoi dati possono essere reperiti anche a Pisa. Sì, però i miei dati devono essere reperiti mettendo delle cose sul corpo delle persone, nelle elettrocardiogramma, rilevatori della conduttanza cutanea, insomma, rilevatori di segnali fisiologici che io monitoro in risposta appunto a immagini subliminali fobiche. Per cui questa cosa comunque mi è stata bloccata già prima del lockdown, non riprenderà almeno fino all'anno prossimo, perché giustamente viene considerata l'ultima cosa da far ripartire. Ed è giusto che sia così, francamente, perché appunto se io non faccio i miei esperimenti non muore nessuno, se invece li faccio e io ho il coronavirus faccio una strage, perché devo avvicinarmi tantissimo alle persone. Certo. Cioè, metto una cuffia in testa e nel farlo devo andargli proprio 10 centimetri dalla faccia, tanto per dire. Okay. Per cui tutte queste ricerche sono state bloccate. Io ho avuto la fortuna che dovevo andare in Svizzera per 6 mesi. Per cui mi ero già organizzato in modo da raccogliere il 90% dei dati che mi servivano prima della partenza. La partenza l'avevo programmata per il 7 marzo, invece già Quindi è colpa tua, Sergio, via. Esatto. Già dal 4 marzo mi hanno messo in quarantena preventiva, cioè per andare in Svizzera mi hanno detto devi stare 2 settimane in quarantena in Italia e quando verrai in Svizzera dovrai stare altre 2 settimane in quarantena lì. Poi nel frattempo hanno chiuso tutto, per cui le mie 2 settimane di quarantena sono diventati 3 mesi abbondanti. E adesso forse riuscirò ad andare lì verso fine giugno. In Svizzera si possono ancora fare esperimenti sulle persone, per cui lì farò degli altri esperimenti di tutt'altro tipo, cioè tutt'altro no, però insomma. Ma quindi la tua partenza è stata semplicemente posticipata? Speriamo di sì, in realtà la Svizzera sarebbe pronta a riaccogliermi dall'8 giugno, però l'Italia non mi ha ancora dato il permesso di andare. Adesso speriamo che con le ultime, stavo leggendo giusto adesso l'articolo che conferma che dal 3 giugno, almeno all'interno dei confini patri, si può fare un po' quello che cazzo ci pare, per cui speriamo che riaprano anche all'estero. Sì, avevo sentito questa storia per cui ci devono essere delle regioni con lo stesso insomma, grado di infettività, eccetera, e quindi gli spostamenti sarebbero stati anche appunto gestiti a seconda dello stato delle varie regioni. Insomma, ancora no, non credo ci sia una grande chiarezza. Ma in realtà, ad esempio, con la Svizzera il confine non è mai stato chiuso davvero, perché il sistema sanitario svizzero si basa sui frontalieri italiani. Per cui se avessero chiuso agli italiani non avrebbero più avuto infermieri e medici fondamentalmente. Ah, Che si poteva andare solo per questioni di lavoro. E con il fatto che i dottorandi in Italia sono degli studenti, se io volevo andare lì la mia non era una questione di lavoro. E quindi non potevo andarci, perché io in Italia sono uno studente. uno studente con uno stipendio che ha un tempo determinato per finire un progetto di ricerca, quindi insomma alla fine non è lavoro, ma non vedo Esatto. proprio dove sia la differenza, insomma. La differenza è che quando vai in banca ti ridono in faccia, quando vai in banca chiedo un mito, ti ridono in faccia. È già la seconda volta che lo dici, eh? È una cosa fresca, Sergio. No, È sentita, è io anche lì sentita. sono stato È fortunato, insomma. sentitissimo. Vabbè, ora non apriamo anche il discorso banche, perché altrimenti veramente si entra in un ginepraio. No, poi ovviamente quando invece vai in un museo e dici io sono, che ne so, c'è cioè l'entrata gratis per studenti e tu finalmente dici io sono uno studente. Dico no, ma noi intendiamo solo studenti di Ah corsi di sì? laurea, allora vaffanculo, insomma. Ah, non ti fanno entrare gratis nei musei? Spesso no, Vabbè, perché te hai provato a entrare in un museo di recente, Sergio? Non ci credo. spesso no. Dio santo, io no, di recente no, però quando posso. Piacciono i musei. Ma e questo anche a Firenze, Anca? Se vai in un museo non ti fanno entrare? Allora, no, io per il tipo. Perché su Anca ci credo che lei ci va nei musei. Anca, però non la sentiamo bene, non la sentiamo Sto bene. avendo dei problemi io. Che mio internet Eh sì, lo so, lo so. ancora? Perché a me non mi Ma dà bene. quando ci sarà il 5G cambierà tutto, Anca. Esatto, infatti non vedo l'ora. Ma niente, adesso dovresti sentirmi perché mi dà di nuovo connessione verde tutti i puntini fatti Sì, bene. infatti, adesso ti sentiamo, adesso ti sentiamo. Molto Per bene. quanto riguarda i musei, io in tutto questo periodo ho sfruttato il mio essere studentessa di storia e sono entrata gratis in tantissimi posti, tranne a Mantova, dove hanno deciso che storia e storia dell'arte sono troppo diverse per essere paragonate e mi hanno detto che non posso. Ah, ok. Però a Firenze poi abbiamo l'ingresso gratis per via dell'università in tutti i musei civici, quindi a Firenze è È un diverso. discorso diverso. Sì. Sì, vabbè, Pisa Firenze è una guerra infinita, insomma, dai. Anca, dove eravamo rimasti prima? Che non mi ricordo. I ricercatori, le borse, il ministero che non ha ancora risposto. Ecco, per esempio, te Anca, che cosa è cambiato dal momento in cui, vabbè, al di là del fatto che non puoi spostarti in Roma, ma perché? Spiegaci un attimo, che cosa stai studiando? Allora, il mio progetto si basa su, cioè, sto studiando fascisti, fascisti cattivi. Sto studiando la Guardia di Ferro, che è un movimento di estrema destra nato in Romania negli anni 20 e 30, e in particolare la partecipazione femminile a questo movimento di estrema destra. E da molti punti di vista il progetto, nelle sue forme che si è deciso di darlo per adesso, è più o meno concluso. Però perché la tesi è già in bozza ed è già in correzione dal mio. Ok. Però ovviamente per andare avanti, necessariamente per seguire poi la gavetta, bisogna fare un postdoc, bisogna trovare degli assegni di ricerca, bisogna inventarsi qualsiasi cosa. Che sia una specie, non lo so, un filone della tesi che non ho avuto modo di sviluppare, che sia un progetto nuovo, collegato, qualcosa di genere. Al momento non sembrano però grandi esserci questo senso. Ok. Diciamo che il paese che eravamo più orientato, che era anche l'Inghilterra, è molto scettica in questo momento. Non sta assolutamente. Siamo un po' così, non si sa cosa ci sarà. Insomma, è un periodo un po' complesso per tutti. Un periodo un po' complesso per tutti. Ma io direi di fare adesso, prima di riprendere, un inframmezzo musicale, dai, sennò poi diventa troppo pesante la cosa, no? Facciamo un inframmezzo musicale Mi sembra più che vai. giusto. E vediamo se parte, perché oggi ci sono vari problemi tecnici. Il mondo prima. Sui fiori era bello vedere che sentire le tue mani fredde, cercare qualcosa di me. Era bello i tuoi piedi sopra le cosce, un po' come fossimo in moto, ma distesi sul letto mio fresco, quasi come guidassi tu. Bene, bene. Il mondo prima che arrivasse il Covid, sostanzialmente, no? Bisogna un po' riadattare ai tempi. Eh sì, la citazione era chiara. Eh sì, effettivamente un po' di cose sono cambiate, un po' tante cose. E ora vediamo di riuscire a riprendere in mano un po' di cose. Più che altro, io non so voi... Ma ho la sensazione, ero molto più speranzoso nella fase 1, sinceramente. Nella fase 1 nutrivo questo ottimismo in cui speravo che le persone reagissero tentando di cambiare in meglio, no? Speravo in una ripartenza positiva. Adesso sto perdendo un po' questo ottimismo. Voi invece avete un po' di ottimismo da infondermi? Insomma, la fase 2 è un po' un momento di disillusione, probabilmente, in cui si vedono che si vedono certe cose che non fanno piacere. Però, allo stesso tempo, ma chissà, qualche fonte di ispirazione, secondo me, ce l'abbiamo sempre. Te, Sergio, come la vedi, invece? Allora, io non ho sentito niente di quello che avete detto negli ultimi 5 minuti perché mi si è sconnesso il telefono, il internet è stato attaccato alla linea del telefono. No, stavo dicendo un po' che almeno io personalmente mi ero un po' illuso in fase 1 che il mondo dopo tutto questo risorgesse, no? Nel senso si riprendesse con delle pratiche quotidiane migliori, insomma ero ottimista in una ripresa, diciamo, nel senso speravo che le persone avessero capito che era necessario un cambiamento, ecco, che prendessero questo periodo come un modo di rigenerarsi e diciamo, approcciarsi al mondo in un modo più solidale, in un modo più aperto. Invece questa fase 2 mi sta un po' disilludendo, togliendo questo ottimismo, ecco. Te invece come la vedi? Senti, io invece rimango relativamente ottimista, nel senso che... sicuramente non dobbiamo illuderci che bastasse tenerci a casa per un mese per risolvere tutti i problemi del mondo o per farci migliorare tutti, anche perché nel frattempo sicuramente c'è una crisi economica mostruosa, per cui comunque uno non è che può stare lì a farsi tante seghe mentali su quanto deve essere bello il mondo se non sa più cosa mettere in tavola perché non ha più i soldi che aveva prima. E questo ok, però alla fine tutte queste, cioè nella storia, come ci insegnerà anche Anca, ci sono stati delle occasioni che anche solo per il fatto di essere condivise da molte persone, poi di fatto inducevano dei cambiamenti di comunità nazionale. Per esempio, proprio a Firenze c'era stata l'alluvione, si erano trovati un sacco di giovani tutti assieme, gli angeli del fango, nel 67, nel 68 è successo un 68, per l'appunto. Non è detto che sia una cosa positiva, probabilmente cose del genere sono successe anche prima di, che ne so, dell'instaurarsi di regimi dittatoriali, però comunque qualcosa si smuoverà, secondo me, in seguito al fatto che tutta l'umanità ha vissuto una situazione simile, cioè questa cosa finora, che io sappia, era successa solo a livello nazionale. Quando era successo a livello internazionale era una guerra di qualcuno contro qualcun altro. Cioè, l'ultimo evento mondiale che mi viene in mente di queste proporzioni è stata tipo la Seconda Guerra Mondiale o la Guerra Fredda. Sì, ma la Guerra Fredda, sì. La Guerra Fredda comunque all'isoletto non riguardava niente, magari, no? Invece questa è una cosa che nel giro di pochissimo tempo ha colpito tutto il mondo, in una maniera mediaticamente molto visibile, tra l'altro, in cui tutti, più o meno, per quanto si cerchi di dire colpa della Cina, è un complotto, eccetera, eccetera, Ma valiva là, alla fine tutti più o meno siamo risultati vittime di questa cosa, per cui sì, cercheranno di fare con qualcuno, ma non so quanto ci riusciranno alla fine. Per cui questo è un evento che potrebbe dare un, come dire, un senso di comunità a livello globale. Tra l'altro è una cosa che non era preparata, cioè le guerre uno se le prepara, per cui sì, anche a livello comunicativo le dirotta come vuole. Questo, a meno che non sia vero il complotto, per cui è stata tutta una cosa perché comunque una piccola teoria del complotto c'è dentro ognuno di noi, eh. Secondo me a allora, tutti io ecco, vorrei approfittare di questo spazio di grande notorietà per lanciare la mia metateoria del complotto, cioè una teoria del complotto che vorrei condividere con voi perché mi sembra particolarmente bella, cioè la teoria del metacomplotto, ovvero ma chi giova dal fatto che ci siano tutte queste teorie del complotto? Ne giovano i governi, i servizi segreti, che i complotti li fanno davvero. Solo ah, che... quindi se dici che c'è qualcuno che... è per questo il metacomplotto, cioè il complotto del complotto. Esatto, se io voglio, non so, se io voglio per l'appunto scatenare una pandemia mondiale e ho paura che qualcuno mi scopra, cosa faccio? Negli anni precedenti metto in giro un sacco di complotti idioti, così quando poi qualcuno scopre il mio di complotto, la maggior parte delle persone dirà, ma sì, ma figurati, ma questa è l'ennesima teoria complottistica che sentiamo, non ha senso, no? E quindi la mia teoria del metacomplotto ha proprio questo di bello, intanto che come tutte le teorie del complotto è assolutamente impossibile dimostrare che non esista. E poi che manda in cortocircuito i complottisti, perché essendo una teoria del complotto un complottista ci vuole credere, però per credere a questa teoria del complotto deve in automatico, come dire, privare di fondamento la maggior parte delle teorie del complotto che ha sentito finora. Oh, sì. È un complotto che mina le teorie complottiste, mi piace. È un complotto che mina le teorie complottistiche, che ha perfettamente senso. Io se fossi un governo lo farei davvero. Cioè se fossi un governo che ogni due per tre fa cose che non dovrebbe, tipo gli Stati Uniti, ma non solo, a quel punto metterei in giro un sacco di teorie complottistiche, così tipo a furia di gridare al lupo, la volta che il lupo c'è davvero, tutti dicono, ma no, ma figurati, ma è una fake news. Ok, quindi bisogna sperare che al governo non ci vadano persone come te, via. Esatto. Buona sapersi, Sergio, buona sapersi. E te, Anca, invece, come la vedi questa ripresa? Ah, per prendere un po' quello che diceva Sergio sul metacomplotto, diciamo che forse è ancora più complicato, nel senso che io non credo al momento a nessuna teoria del complotto, quindi non credo che queste voci siano vere, ma di sicuro immagino e penso che i governi siano consapevoli e ne giovino abbastanza che la teoria del complotto sposta l'attenzione dai problemi sociali e umani della pandemia. Sì. E incanala rabbia e forze rivoluzionarie sulle cose sbagliate. È questo quello che dicevo, perché mi toglie un po' di ottimismo, che ho paura che dopo tutto questo si esca ancora più ciechi rispetto a prima, cioè ancora con più insicurezze rispetto a prima. Sono insicurezze che non sono date da noi, sono insicurezze che sono anche un po' imposte dal momento, no? Sì, su questo sono anch'io abbastanza... voglio dire pessimista, perché comunque ho ancora una vaghissima fiducia nel genere umano. Nonostante gli studi sui fascisti. Esatto, dopo 4 anni di studi di fascismi ed olocausti e robe varie, l'ho un po' persa per strada. Però tendo ancora a vedere del buono, qualcosa si è mosso, qualcosa succede. C'è la cosa che mi ha rattristito di più... lo stupore davanti alla solidarietà della gente, come se tutti si aspettassero... non so, dalle persone il peggio, invece aver dimostrato quel minimo di umanità ha creato notizia intorno a piccoli gesti che in realtà sono abbastanza, non dico normali, ma abbastanza comuni tra esseri umani, vicini, familiari, insomma c'è stato quasi uno stupore positivo anche... pensavo che noi fossimo arrivati a credere di noi stessi di essere arrivati così, di essere così cattive persone, di stupirsi poi davanti a un gesto di solidarietà. Quindi da una parte, non so, ho piccola fiducia, però il problema grandissimo è che se vogliamo dei cambiamenti, se ci dovranno essere dei cambiamenti, c'è una necessità di volontà politica non scontata in questo momento. Eh sì. Speriamo di essere in delle mani consapevoli. Perché anche le misure coraggiose che qualche economista illuminato chiede, non, che non ci sarà volontà politica abbastanza grande di, non so, iniziare a smantellare grandi patrimoni, grandi imperi pieni di soldi e paradisi fiscali e robe così, è abbastanza difficile pensare a una ridistribuzione verso i lavoratori essenziali che adesso abbiamo riscoperto, come se prima non fossero lì. Non lo so, c'è la paura che venga dimenticato tutto in un tempo relativamente breve, che lo status quo continui con qualche, non lo so, nostalgia di possibilità che sono ormai sfumate. Non so, bisogna aspettare, se ci sarà una seconda ondata, lì forse si arriva a una micro rivoluzione, quello può darsi. Non possiamo una sperare. Micro rivoluzione in positivo? Cioè, immagino che magari veramente le milioni di persone che si ritrovano in completo sbandamento economico e sociale inizi a uscire dal complotto, non lo so, 5G e coronavirus, e pensi come è possibile che in Italia milioni e milioni di persone non abbiano dei risparmi per vivere 3 mesi, cioè che il sistema ha del marcio al suo interno. Eh sì. Quindi questo, però non possiamo neanche sperare in una prudescenza della pandemia per migliorare la situazione socio-economica, perché sarebbe ingiusto, come aver sperato che l'elezione di Trump portasse a un risollevamento popolare, cosa che poi non è successa, che probabilmente verrà rieletto. Dici? Ma speriamo di no, dai. Speriamo di no, ma a parte che abbiamo Biden come alternativa, quindi non c'è da essere allegri. Effettivamente sì. Sì, anche sulle elezioni americane ci sarebbe da parlarne molto, ma anche su quello che sta succedendo adesso, proprio in questi giorni negli Stati Uniti, ci sarebbe da parlarne molto, perché poi alla fine anche lì sta avvenendo una specie di rivoluzione che si discosta molto dal periodo Covid, cioè non ha proprio niente a che vedere. Le persone hanno capito che non è il Covid il problema è tutto ciò che c'è dentro la testa delle persone, qualcosa di radicato ormai da troppi anni. Che poi è legato in maniera particolare, perché credo di aver letto qualche tempo fa che in alcune città del tipo in San Luis in Missouri, l'80% delle vittime di Covid era di origine afroamericana. Quindi in realtà è tutto collegato, perché ovviamente ineguaglianze strutturali poi si riflettono anche nell'accesso alla salute, alle cure, all'essere più facilmente vittime di un sistema sanitario comunque discriminatorio di base. Okay. Quindi dici che la vicenda di Minneapolis poi alla fine è stata la goccia che ha fatto traboccare un po' il vaso? Sì, perché poi tanto il problema si ripropone in continuazione da quando c'è Black Lives Matter e tutto il movimento è nato sulla scia delle uccisioni sommarie della polizia, però ovviamente la situazione corrente può aver dato una spinta ancora più grande, perché si è capito che molti, e soprattutto non parliamo dei vari suprematisti o qualsivoglia bianchi che comunque protestano il lockdown per la loro libertà. Ci sono dei lavoratori ispanici e afroamericani che lavorano in fabbrica e quindi loro possono essere liberi. Sì. Ma sì, infatti è una situazione critica, e qualsiasi situazione critica per definizione, cioè, accentua le disuguaglianze e quindi qualcosa succede. Poi se questo qualcosa debba essere qualcosa di positivo o negativo è tutto da vedere. Credo che più che altro dal punto di vista politico, a seconda di come viene gestita l'epidemia e le sue conseguenze, il regime politico che c'è in quel momento, in quello stato, cambierà. Quindi, se la situazione non migliora in fretta, tutti gli stati che non hanno saputo gestire bene vedranno un cambio di governo, in cui magari quello nuovo sarà molto peggiore di quello prima, ma l'importante è che sia diverso. Quello che penso anch'io degli Stati Uniti, cioè mi auguro che dopo questa mala gestione da parte di Trump di tutta questa storia, dove l'unica cosa che sembra sia in grado di fare è di puntare il dito contro l'OMS e la Cina, Cioè, io spero che questo porti nelle persone la consapevolezza che non può governare un paese quella persona lì. Sì, qui anche se effettivamente l'alternativa non sembra poi così eclatante, ecco. Poi ci sono delle differenze comunque sostanziali anche soltanto a livello di uso del linguaggio, dei media, della capacità di comprendere e di fare associazioni tra concetti. Diciamo che comunque Biden, nonostante tutti i problemi, è una persona più, come dire, non so neanche come chiamarlo più, però di sicuro non si arriva agli eccessi da South Park che sono presenti in Trump. Sì, sì. Poi sono stati entrambi denunciati da donne per stupro, insomma. Sì, diciamo che scegliamo tra il diavolo e il suo aiutante, però sempre ci sono delle differenze. ti stavi riferendo a Peretta Gigante e Panino alla merda? Sì. Però... Eh sì, è un po' il destino di ogni lezione americana. Sì, sì. C'è anche il povero Bernie Sanders che è stato... Troppo radicale per loro. Sì, però è sì, stato un bel... è stato portare in una politica che da non so quanti anni non vedeva certi tipi di argomenti e di contenuti portati, insomma, in campagna elettorale, quindi secondo me avrà sicuramente uno strascico più lungo di quello che si pensa, anche se è stato un brutto colpo ovviamente che lui sia uscito da... Ma lo spero, ma anche Elizabeth Warren, lo spero veramente che un minimo qualcosa sia... almeno delle idee siano state instillate nel dibattito. Ma non solo, prima avete toccato un punto che mi ha interessato molto, ovvero cioè, il discorso che un po' l'inettitudine, l'incapacità di gestione che hanno dimostrato i governi e le istituzioni in questo periodo di crisi completa, stanno in un qualche modo portando a delegittimizzare o quantomeno a diminuire la forza di quello che è l'apparato anche da un punto di vista statale o di ordine, e infatti credo che anche da quel punto di vista lì è un po' collegato tutto a Minneapolis, nel senso che la gente ora si sta sentendo... più legittimata a cercare di cambiare le cose, visto che appunto c'è una chiara dimostrazione di inefficacia dal punto di vista istituzionale. Sì, sì, senza dubbio. E Anca, senti, io sono molto curioso, dato che hai appena consegnato la tesi, quindi se vuoi darci uno spoiler, sono molto curioso dei risultati di questa tesi, cioè perché alla fine, se ho capito bene, te hai collegato il fascismo in Romania e l'hai analizzato sotto un'ottica di partecipazione all'ambiente fascista delle donne in particolare, no? E che cosa è venuto fuori? Allora, cosa è venuto fuori? Che la situazione, sì, è... più complessa di quanto tu pensi, che diciamo alcune idee generali si basavano sul fatto che molte donne entrassero in questi movimenti semplicemente per amore, per passione, per emozioni legate a uomini appartenenti ai movimenti, insomma è stato sempre molto, pure vittimizzandole molto, dicendo vabbè non c'era altra scelta, o comunque erano, poi questo soprattutto nei grandi regimi dove effettivamente la scelta era un po' più compromessa. In una situazione come in Romania era una decisione volontaria di entrare a far parte di un movimento del genere, quindi è anche diverso poi dal tipo di partecipazione in Italia o nella Germania nazista. E quello che scopriamo è che spesso alcuni di questi movimenti di destra o estrema destra, molto simile al caso di Casa Pound oggi in Italia, non sono apertamente misogini o apertamente antifemminili. Antifemministi forse sì e sicuramente sì, però di sicuro non sembrano chiudere le porte alle donne, anzi c'è una esaltazione della partecipazione anche femminile, perché è fondamentale perpetuarsi dello Stato-Nazione, dell'etnia, di quello che si vuole. Ok, e quindi queste donne che cosa ci hanno visto? Cioè che tipo di opportunità ci hanno visto nella partecipazione a questi movimenti? Sicuramente libertà di movimento inedita, uscire dalle proprie famiglie, la possibilità di non sposarsi e di farsi una carriera all'interno di un partito politico, di un movimento politico. Alcune appunto donne hanno deciso di non, sì, era abbastanza, diciamo che rimanere single nella Romania degli anni 30 non era particolarmente accettato, però se entravi in un partito del genere, in un movimento del genere in cui molte delle donne in posizioni più decisionali potevano decidere tranquillamente di non sposarsi, non essere considerate, diciamo, traditrici del proprio sesso. Questo ovviamente una piccola minoranza, perché la maggior parte non avrebbe dovuto seguire queste orme. Diciamo che c'è questa contraddizione ineliminabile, per cui anche oggi una quantità non indifferente di donne si affilia a partiti di destra o di estrema destra, che sembrano aperti su accogliere donne, però sotto nascondono un'agenda che è di controllo della vita della donna, emozionale, sessuale, riproduttivo, professionale. Per cui non, l'apertura verso le donne nei movimenti di destra, di estrema destra in particolare, o destra radicale, danno molta libertà, però dal punto di vista di rispetto ad alcuni, in alcuni posti, da cose tradizionali, no? Si può uscire dall'essere moglie e madre, o anche se lo sei per una causa chiarata o pensata come più grande. Quindi paradossalmente vedono la libertà nell'adesione a questi movimenti. La possibilità di muoversi liberamente, di cambiare città, di andare a fare campagna elettorale, di partecipare a situazioni in cui alcune donne non, da cui erano escluse dai partiti tradizionali, soprattutto poi nella Romania degli anni 30. Ci sono strane similarità con oggi, ma anche molte differenze, perché ovviamente la decisione oggi di entrare in un movimento come Casa Pound è probabilmente legato a alcune similarità, ma anche molte differenze, perché non so se poi la paura del perdere il ruolo designato della donna è un qualche sminuito, non lo so cos'è esattamente oggi, però è probabile che per mancanza di possibilità per archivi nuovi, io che quest'estate studierò Casa Pound e lo saprò meglio. Ah, bellissimo, allora poi ci dovrai dire, eh? E poi vi dovrò dire, però sì, sicuramente c'è un meccanismo perverso, per cui si cerca una partecipazione inedita in un movimento che però nei suoi fini ultimi comunque mantiene una divisione di genere particolarmente stringente e di controllo poi degli uomini sulle donne. Sì. Tra l'altro, a proposito di Casa Pound, se non sbaglio ieri o un paio di giorni fa, Virginia Raggi ha finalmente contattato il governo chiedendogli di sgomberare edificio occupato di Roma, finalmente sì, hanno sgomberato tutto tranne quello fino ad ora, almeno dai, almeno sì, quindi, siccome sì, quest'estate, adesso stavo proprio stamattina creando un piccolo abstract per una conferenza in cui, siccome non si può andare in archivio, uno un po' inizia a studiare cose che ha più vicine. E Casa Pound è un'esperienza interessante perché rispetto ad altri movimenti non sono né misogeni particolarmente, sono aperti verso le donne, non, la donna è anche poco oggettificata, cioè non è la destra di Berlusconi veramente Latin lover, e ci sono molti spunti interessanti su queste, e soprattutto come puoi cadere in questa trappola, che è un po' quello che succede in alcuni personaggi del racconto dell'Ancella o di altri, che sostieni un movimento che poi porta al tuo annullamento come libero cittadino. Eh sì, beh, io direi a questo punto di mandare un altro pezzo e poi vediamo dopo come continuare. Certamente, vai. E l'ho visto, camminava per strada, bomber alfa e la testa rasata, non curante dei gatti bagnati e della polizia. Innocente prodotto randaggio di periferia. Lui da solo salutava la gente all'apologia di fascismo indifferente. Ma il suo grido d'aiuto non riceve la giusta attenzione, perché è contro natura adottare in questa nazione. Adotta fascista anche te, adotta un fascista anche te, adotta un fascista anche te. Affacciati in finestra e guardando l'asfalto bagnato, scrutando dall'alto quel Cristo di nero inzuppato, i due si guardano e dicono: a Mauri, tu ricordi Renato? E certo, tu parli del nostro bambino mai nato. Adotta un fascista anche te. Adotta un fascista anche te. Adotta un fascista anche te. E sia russo, sia nero, sia frocio d'etero, sia preto o carabiniero. Che sia fascio davvero, sia stronzo o tenero, oppure che sia come me. Adotta un fascista anche te. Adotta un fascista anche te. Adotta un fascista anche te. Adotta un fascista di Giancane e Lucio Leoni, mi sembra. Lucio Leoni. Bene, allora direi di affrontare un ultimo argomento insieme, anche perché Sergio mi ha appena scritto in privato che deve andare a fare l'untore in giro, quindi non so, Sergio, di che cosa ci volevi parlare? Io, tanto per rimanere in tema, volevo commentare un attimo le misure che sono state prese dal governo per quanto riguarda la ricerca e i dottorandi in particolare, perché volevo un po' uscire da quello che mi sembra il refrain di qualsiasi categoria professionale, che a un certo punto, quando si è cominciato a parlare di riprese eccetera eccetera, è spuntato il benaltrismo, per cui se autorizzavi le persone a uscire dovevi autorizzare anche le messe, se autorizzavi le messe dovevi autorizzare anche X, anche Y eccetera eccetera, e ognuno diceva vabbè, ma se lo fa lui lo faccio anch'io. Non dimentichiamo, c'era per tipo 2 settimane i titoli dei giornali ogni giorno erano ma non dimentichiamo, e ogni volta c'è una categoria diversa, e da quel punto di vista la ricerca invece è stata relegata alle ultime cose che devono riprendere le loro attività normali, e secondo me è giusto, nel senso che almeno la ricerca, ovviamente non quella medica su Covid, però certi tipi di ricerca, tra cui anche la mia, sono secondo me importantissime, essenziali, ma non urgenti, cioè della serie che se c'è una pandemia globale forse la priorità è uscire dalla pandemia piuttosto che sapere cosa fanno i fobici quando vengono sottoposti a stimoli subliminali. E quindi invece sarà per me facile parlare, magari perché comunque la mia borsa di studio la sto prendendo lo stesso, però mi è sembrato che tante categorie abbiano pensato solo a, come dire, a portare le istanze della propria categoria senza pensare se effettivamente quella cosa era davvero fondamentale in un momento di pandemia globale. Cioè, fondamentale, magari banalmente urgente, cioè, le cose che ritengo importanti ma non urgenti. Cioè, se le faccio tra 6 mesi non muore nessuno. E invece quello in cui ha peccato il governo, secondo me, è stato che tutti i dottorandi si sono visti dilatare i tempi del dottorato. Al momento abbiamo solo 2 mesi in più di borsa, che sono un po' pochi, francamente sono proprio pochi. Cioè il mio dottorato, se io non avessi già raccolto tutti i dati, lo finirei con 6 mesi di ritardo almeno, come minimo. Per cui, visto che non è colpa mia, sarebbe stato bello avere almeno 6 mesi di BOES. Ok, perché vi hanno dato solo 2 mesi di proroga? Hanno dato solo 2 mesi di proroga della BOES, sì. Per ora, secondo me è un po' sbagliato. Sì, c'è sempre la speranza che nella discussione in Senato aumentino. All'inizio avevano parlato di 6 mesi e quella mi sembrava una cifra giusta. Anche perché i dottorandi in tutta Italia sono tipo 2000, una cosa del genere. Cioè, dare un minimo di borsa in più non credo che sia eccessivo dal punto di vista economico. Però scusa se sono un po' blasfemo trattando questo argomento, ma non lo conosco bene. Però, cioè, volendo una ricerca sulle fobie, uscendo da questo periodo di pandemia, si potrebbe anche attaccare a qualche nuovo tipo di fobia. Cioè, immagino che dopo tutto questo periodo ci sarà la nascita di un sacco di nuove fobie, o comunque un incremento di fobie, che ne so, fobie nell'uscire di casa. Poi ci saranno anche delle fobie, immagino, rivolte a batteri, virus, cose del genere. Certo, tutta questa cosa alimenterà tantissimo le cosiddette fobie da contaminazione, che sono tutte quelle fobie che riguardano i batteri, che sfociano in alcuni casi, per esempio, in comportamenti ossessivi compulsivi, tipo lavarsi le mani in continuazione, oppure le fobie verso, che ne so, le classiche fobie che la gente di solito non sa spiegarsi, tipo la fobia verso le piume, ad esempio. Magari non verso gli uccelli, verso le piume, è una cosa ancora più irrazionale, diciamo. Esiste una cosa del genere? Davvero, alquanto peculiare. Non è neanche più rara, diciamo. Spesso vengono spiegate in termini di fobia da contaminazione. Io ad esempio ho la ragazza biologa, conosco un sacco di biologhe e tutte loro hanno una qualche forma di ansia da contaminazione, magari non a livelli fobici. Però tutte loro sono particolarmente attente a certi aspetti della pulizia, magari. Scusa la domanda, ma quando è che un'ansia diventa fobia? Fondamentalmente quando inficia il tuo, come dire, la qualità della tua vita. Cioè è un parametro assolutamente soggettivo. Se tu hai la fobia degli scorpioni, ma non vedi mai uno scorpione nella tua vita, questa cosa non raggiunge mai dei livelli patologici. Se hai la fobia del volo e sei un grande manager che dovrebbe prendere un aereo a settimana, a quel punto tu non prendi l'aereo a settimana perché hai la fobia del volo, questo inficia la qualità della tua vita e questa può essere considerata un livello patologico di fobia. Poi questa è la prospettiva clinica. Invece, per quanto mi riguarda, la fobia, cioè si può chiamare fobia quando tu hai un meccanismo che ti fa avere paura di un certo oggetto o situazione e questa paura la vivi banalmente come un disagio. Se tu dici ho paura di quella cosa e riconosci che hai paura di qualcosa in maniera assolutamente irrazionale, può aver senso parlare di fobia se tu sei tra le due persone ogni 100 che dicono di avere una paura eccessiva di quell'oggetto, di quella situazione specifica. Però la mia è una prospettiva più da ricercatore che da clinico. E come si tratta una fobia? Tipicamente si tratta con una terapia dell'esposizione, per cui io ti prendo e ti espongo in maniera graduale allo stimolo fobico. Questa cosa però ha il pregio che funziona tantissimo, cioè tipo il 90% delle persone che fanno una terapia di questo tipo riescono a risolvere la propria fobia. Okay. Il difetto è che intanto magari risolvono l'aracnofobia, ma gli viene la paura degli scarafaggi, quindi si ha uno slittamento della fobia. E poi che pur funzionando molto bene come terapia, è una terapia che viene accettata solo dai pazienti meno gravi, perché quelli più gravi dicono col cavolo che io vengo da te e tu mi fai vedere anche solo delle foto di un ragno. Motivo per cui può aver senso cercare di indurre questa cosa con immagini subliminali, perché anche le immagini subliminali possono indurre dei miglioramenti nella fobia, per cui io ti faccio vedere un sacco di immagini di ragni per 20 millisecondi, tu sarai consapevole di aver visto solo il gattino che ti faccio vedere subito dopo il ragno, però poi ti avvicini di più a un ragno. E quindi in questo senso c'è stato un miglioramento nella fobia, no? Cioè tu diventi più capace rispetto a prima di avvicinarti ai ragni. Mi piace molto come punto d'incontro, perché una cosa, appunto, un'osservazione che ti avrei voluto fare prima è che cioè da profano anche io ovviamente, però mi sembrava controintuitivo pensare che appunto delle fobie si scatenano nel momento in cui uno ha come degli eventi di attivazione, cioè arrivare davanti a ciò di cui magari sei fobico, se non vedi mai un ragno invece avere a che fare con i ragni ti potrebbe scatenare, e allo stesso tempo però questa sensibilizzazione doveva passare per forza dall'avere contatto con l'oggetto fobico. Quindi mi piace molto anche come punto d'incontro cercare magari appunto di lavorare sull'inconscio, quindi non mostrare direttamente qualcosa, ma fare un passo per far avvicinare le persone comunque, quindi allentare questa sorta di... Sì, diciamo che al conscio comunque a un certo punto deve arrivarti, perché hanno già provato a fare terapie che hanno basate solo su una stimolazione subliminale. E i ricercatori in questione dicevano ha funzionato benissimo, perché, che ne so, un fobico che vede un ragno avrà, invento, un aumento del battito cardiaco, un'iperattivazione dell'amigdala, che è un'area del cervello implicata nelle reazioni a stimoli paurosi, e una maggiore attività elettrocutanea, che il sudore che spegliamo dai pori. Mm-hmm. Tutte queste cose possono essere ridotte anche solo grazie a un'esposizione subliminale. E quindi tu dici, vabbè, l'esposizione subliminale funziona, no? Quella persona si è avvicinata di più al ragno, ha avuto una riduzione di tutti questi feedback fisiologici, quindi vuol dire che non ha più paura dei ragni. Dice, ok, va bene, ma gliel'avete chiesto se ha paura dei ragni? E quei pochi che l'hanno fatto hanno visto che le persone avevano ancora una paura fottuta dei ragni, per cui non gliel'avevi mica risolta tanto bene la fobia. Certo. Diciamo che comunque l'esposizione a stimoli subliminali può essere utile se tu la usi per rendergli più accettabile l'esposizione, che comunque a un certo punto deve essere un'esposizione consapevole, perché se tu sei fobico a un certo punto è come se bastasse il ricordo della paura che avevi del ragno per fartene avere paura. Se anche io ti riduco, ti spengo il cervello quando vedi un ragno, adesso la ipersemplifico, sì, sì. Tu comunque, se ti ricordi che avevi paura dei ragni, questo basterà a farti avere paura del ragno, anche se non stai più tremando, non stai più reagendo dal punto di vista fisiologico come reagivi prima. Certo, quindi se non ho capito male, questa fase inconscia è più una fase di preparazione e di, come dire, ammorbidimento di quello che poi è un trattamento anche a livello conscio, perché di lì poi alla fine bisogna passare, quindi. Esatto, alla fine bisogna passare da un trattamento a livello conscio. Essendo questo poco accettabile, può essere utile che io prima ti faccia una desensibilizzazione a livello subliminale, in cui così poi ti dico, guarda, adesso ti farò vedere dei ragni, ma noterai che hai un ridotto feedback a livello fisiologico. In questo modo vedrai che sentirai una reazione meno grave alla vista del ragno. Certo. Questo può rendere più accettabile fare la cosa che poi effettivamente funziona. Molto interessante. Bene, bellissima sta cosa, bellissima, bellissima. Guarda, quasi mi dispiace non avere fobie. Possiamo sempre rimediare. Chissà che in questo periodo devo far venire fuori, appunto. Quindi a questo punto scatta un'ultima domanda, Sergio. Come ti viene una fobia? Bella domanda. Ci sono alcuni che pensano che siano... si parte dall'osservazione che la maggior parte delle persone sono fobiche verso cose che hanno un senso dal punto di vista evoluzionistico, cioè ragni e serpenti sono le due fobie più comuni, e lo sono anche in posti come l'Italia, in cui di serpenti, di ragni velenosi praticamente non ce n'è più da qualche millennio, per cui l'idea è che sia un retaggio atavico di quando stavamo nella savana e il bambino che aveva paura dei ragni scappava quando vedeva un ragno, mentre quello che non aveva paura si faceva muovere. Quindi c'è questa idea che derivino da un retaggio ancestrale. Sicuramente però le fobie possono essere anche apprese, e quindi la teoria attualmente più, come dire, più valida è quella della predisposizione, per cui le fobie possono essere apprese, però noi sviluppiamo fobie verso ragni. Dici apprese attraverso un trauma, per esempio uno che ha la fobia dei ragni probabilmente ha avuto un trauma legato a... Ma più che il trauma, in realtà, quello è più una cosa che c'è nell'immaginario collettivo. In realtà, pochi psicologi vanno a cercare il trauma, perché ci sono persone che hanno avuto magari traumi relativi ai serpenti, ma non hanno sviluppato fobie di serpenti, e viceversa, molte delle persone a cui ho fatto esperimenti non sapevano ricondurre la loro fobia a un trauma specifico. Quindi quello non è tanto valido, probabilmente, come discorso. Però sembra anche strano che sia una cosa innata. Le due cose possono sovrapporsi, cioè ci sono magari, invento, su 100 persone ce ne sono 10 che nella vita hanno un incontro ravvicinato con un serpente, ok? E tra queste 10 ce ne sono 2 che hanno qualche meccanismo innato che gli fa avere particolarmente paura di questi serpenti, oppure neanche paura, magari hanno un meccanismo innato che gli fa essere particolarmente attenti verso i serpenti, che glieli fa riconoscere più facilmente, tanto per dire. E poi se questa, come dire, se io mi accorgo più facilmente dei serpenti, questa cosa può farmi diventare un serpentologo, come diavolo si dirà, oppure fare una fobia dei serpenti. E tendenzialmente magari mi fa diventare fobico, perché se sono con mia mamma da piccolo e incontro un serpente, lei avrà paura per me, quindi vedrò in lei una reazione di paura, e quindi associerò i serpenti alla paura e diventerò fobico. Se ho questo meccanismo innato che mi fa essere particolarmente reattivo nei confronti dei serpenti. Se invece mia mamma è anche lei serpentologa, diventerò un serpentologo anch'io, tanto per dire. Vabbè, ma qui a quanto pare abbiamo una fobica, Anca, tu sei odinofobica, che non è ovviamente la paura di un dio vichingo, ma... che sarebbe stato bellissimo lo stesso, comunque. Ma chissà se c'è qualcuno che ha la fobia di un dio vichingo. Ma quindi cos'è Anca? Allora, io ho paura, cioè diciamo una fobia del dolore fisico, o se mi faccio male, o se vedo un ago, o se vedo una gocciolina di sangue, o cose del genere. E lessi un articolo tempo fa su questa cosa, perché è un tipo di fobia che ha reazioni fisiche diverse dalle altre fobie, perché come diceva Sergio, nel caso dell'aracnofobia hai aumento del battito cardiaco, alcune sensazioni di panico, sudorazione eccessiva, eccetera. Invece in questo tipo di fobie come la mia, hai un abbassamento della pressione sanguigna e lo svenimento. Avevo letto tantissimo tempo fa su un articolo di Scienza che poteva essere legato a un tipo di reazione, anche quella basata su forse retaggi ancestrali, perdere meno sangue in relazione a questo, quindi abbassi la pressione sanguigna, vai lentamente verso uno svenimento e in qualche modo perdi meno sangue, o forse semplicemente muori nel sonno e non ci pensi e non sei cosciente del dolore che stai provando. E mi succede abbastanza spesso, insomma. L'ultima volta che mi sono volontariamente sottomessa a questa cosa è stato per fare un piccolo tatuaggio. E la reazione è che per mezz'ora mi gira la stanza, sto male, devo stare sdraiata, poi mi sento stranita per tutto il giorno, ingerisco quantità di zuccheri abbastanza alte per riprendermi e poi sto bene. Però ogni volta che lo devo fare mi preparo con qualche giorno, cioè mi preparo a questa cosa perché tanto succederà. Beh, questo potrebbe essere il primo esempio di diagnosi in diretta, perché abbiamo una fobica e uno è un ricercatore sulle fobie. Esatto. Sergio, cosa possiamo fare per Anca? Ah, niente, credo che l'amputazione sia l'unica soluzione, sì. È spacciata. Possiamo salvare il dito mignolo, però bisogna amputare tutto il resto. comunque no, confermo quello che aveva letto Anca, cioè che l'interpretazione a livello evoluzionistico che viene data di questo tipo di fobia è proprio quella appunto di... cioè sarebbe l'esasperazione di un meccanismo che potremmo avere tutti, per cui se cominciamo a perdere fiotti di sangue, c'è un meccanismo che invece di farti aumentare le palpitazioni, che succede quando abbiamo paura, se aumenti le palpitazioni e di sangue ne perdi il doppio, e quindi un meccanismo che invece ti rallenta, diciamo. Non è facile da stabilire quanto sia vera questa cosa, però potrebbe aver senso. E sicuramente questa è l'unica fobia in cui si ha una reazione deattivante, invece tutte le altre fobie ti fanno avere una reazione di attacco o fuga, fondamentalmente. Cioè, se un aracnofobico vede un ragno, fino a un certo livello di fobia lo schiaccia urlando, oltre a un certo livello di fobia scappa via urlando. Invece, se una persona ematofobica o dinofobica vede del sangue, degli aghi, eccetera, eccetera, tipicamente sviene. Particolare comunque che sia l'unica, appunto. Comporta così. Bene, bene. A questo punto sono felice di non averne. Non la voglio più. Non è mai troppo tardi, Nick, non è mai troppo tardi. Comunque nelle donne sono molto più diffuse che negli uomini, così imparano a sopravvivere al coronavirus, questa cosa sessista del coronavirus. Ah sì? Eh sì. Ah, quindi è scientificamente provato che le donne sono più fobiche degli uomini? Sì, in generale sono anche più ansiose, per cui le due cose vanno un po' di pari passo, ecco. A questo punto mi rendi anche curiosissimo, cioè ci sono delle fobie specifiche degli uomini e delle fobie specifiche per le donne? No, in generale tutte le fobie sono molto più comuni nelle donne che negli uomini. Ok. E ci sono anche delle variazioni legate all'età. Tipo questo perché noi viviamo in uno stato di terrore creato dagli uomini, quindi per forza poi abbiamo fobie. Bravissima, anche io sono d'accordissimo. Sì. Esiste anche la fobia degli uomini? Tipo la fobia di uscire di notte coi tacchi. Questa... Quello è per i San Pietrini. Oh, Madonna, penserò una volta che ti è capitata questa cosa disgraziata e devi stare tutto il tempo a guardarti intorno e a sperare che nessuno ti senta o ti veda, perché boh, non si sa cosa può succedere. Beh, dai, allora io direi che prima di lanciare una nuova rubrica di Anca, mandiamo un pezzo e nel frattempo salutiamo Sergio Frumento che va a fare l'untore. Dove vai, Sergio? Diccelo, vai al mare? No, vado in montagna oggi a fare l'untore, perché ho pensato che non era giusto il fatto che nei paesini di montagna fossero isolati, si fossero salvati. Volevo condividere con loro questa cosa che ormai è diventata una cosa globale, per cui insomma volevo renderli partecipi e ungere anche loro. E dove vai in montagna? Vai sulle Apuane? A Sant'Allago, sul Monte Serra. Quello che viene impropriamente chiamato un monte, quella collinetta che sta vicino a Pisa. Bene, bene, bene. Allora, buona giratina, Sergio, e grazie mille, insomma. È stato veramente davvero illuminante. Grazie a voi, mi sono divertito quando volete. Ciao, Sergio. Ciao. Questa è Giancane Ipocondria. Cosa farò? Di certo qui morirò, in quest'albergo di merda, non a casa mia. Braccio sinistro fa male, l'ansia scende e risale, lingua asciutta è partita, la tachicardia. E adesso cosa farò? Son certo che morirò, in questa stanza di merda, non a casa mia. La fame d'aria che sale, l'ansia cresce e fa male, lingua asciutta è partita, la tachicardia. È solo ipocondria, questa mia nostalgia. Ma è solo ipocondria, questa malinconia. Guardo la sorte che bussa alle porte, ho l'ansia, mi sale, la sento più forte, il cuore mi batte a tempo di morte. Ho una patologia. Adesso adesso cosa farò? Sono certo che morirò in questa stanza di merda, non a casa mia. Braccio sinistro fa male, l'ansia scende e risale, lingua asciutta e partita la tachicardia. E adesso cosa farò? Di certo qui morirò in quest'albergo di merda, non a casa mia. La fame d'aria che sale, l'ansia cresce e fa male, lingua asciutta e partita la tachicardia. È solo ipocondria, questa mia nostalgia. Ma è solo ipocondria, questa malinconia. La mia malattia è il nome che porto. Aspetta, riparti, va. La mia malattia è la tosse che porto. Dico sempre che l'ho presa ieri. Quante orecchie non reggono lo sporco, ho le rime piene di batteri. Guardo questo cielo, tu non torni, sei la mia malattia quando non mi chiami. Se ti dico che io muoio tra due giorni, forse ti vedrò un'oretta dopo domani. Siamo un gruppo di ragazzi strani, a volte ammalati, disinformati. E voi siete nati imparati, belli, perfetti, fermi, impalati. Bene, perfetto, scrivo del nulla, tranne di un mucchio di insicurezze che a me mi accarezzano sin dalla culla, in mezzo alle urla, Gic, Gunda. Datemi ancora un aiuto, sono il recunta di ansie che libero al volo. So che se poi morirò sarò muto, pensavo di farlo in un po' di decoro, ma non lo farò a casa mia, anche se poi casa mia è grande al massimo come uno sputo. Eppure un dottore che grazie a me può pagarsi il mutuo dicendomi solo che è solo ipocondria questa malinconia. Ma è solo ipocondria questa mia nostalgia. È solo ipocondria questa mia nostalgia. Ma è solo ipocondria questa malinconia. Ancora Giancane, oggi siamo di Giancane. È che effettivamente questi erano sia quello di prima che quello di adesso, due pezzi molto in sintonia con quello di cui stiamo parlando. Quindi è così che va. Bene, adesso direi che prima di chiudere la puntata una puntata particolare oggi. Abbiamo abbandonato un po' il nostro format delle prime due puntate, ma è giusto anche cambiare, insomma. Ma tornerà poi, non è che tornerà, poi vediamo. Comunque è sempre bello parlare anche con qualcun altro, soprattutto di queste cose, insomma, di cose di cui non si sa. Quindi alla fine oggi almeno io ho imparato un sacco di cose che non sapevo. Assolutamente. Ma altre cose che non so faranno parte della nuova rubrica a cura di Anca, una rubrica che potremo cominciare già dalla prossima settimana, a cui dedicherò appunto una parte del mio tempo. E di che cosa parlerà questa rubrica, Anca? Allora, questa rubrica, che per adesso ha il nome sciocco di Sex and the Virus, è una rubrica sul sesso al tempo del coronavirus e su come sta cambiando il sesso, il contatto tra esseri umani, l'online dating e le varie applicazioni adesso connesse che stanno subendo appunto dei cambiamenti non indifferenti. Sì, anche la percezione dei corpi è cambiata, no? Lo leggevo su un articolo di Zizek, se non sbaglio. Esatto, mi ispira tantissimo tutto questo argomento, molto bello. Stanno uscendo articoli molto seri dall'Economist, all'MIT Review, su come sta cambiando anche la paura poi di incontrare persone, anche in utenti, diciamo, di vari siti, di varie applicazioni di online dating, che adesso c'è una diversa selezione, c'è ovviamente uno strano, come dire, informazioni epidemiologiche che vengono scambiate, quante persone si è incontrati prima, che tipo di situazione si vive, è cambiato molto rispetto alla spontaneità abbastanza complessa di alcune di queste applicazioni prima. Ah, ma quindi adesso, diciamo, si è creato in maniera informale all'interno delle piattaforme di online dating questo scambio di, cioè, una specie di passaporto sanitario che ti permette di vedere tranquillamente gli altri? Cioè, una cosa informale? diciamo che è molto informale, però noto che le preoccupazioni di tipo epidemiologico contano nell'incontrare qualcuno. Si chiede con quante persone si vive, si chiede che tipo di interazioni si ha durante il lockdown, si chiede vivere con genitori o persone più anziane in casa, diventa problematico selezionare le persone con cui incontrarsi ed eventualmente avere rapporti sessuali o di altra natura. Si tende molto a fare sesso virtuale, che è un'esperienza interessante di questi mesi, per cui molte persone si sono ritrovate a farlo per la prima volta, a farlo di più, a smetterlo perché ti aumenta la frustrazione e il desiderio poi di toccare effettivamente i corpi di persone amate o meno amate. Ci sono nuovi studi, nuove idee che stanno emergendo, nuove preoccupazioni poi anche di alcuni aspetti, della mancanza poi di quanto ci faccia male la mancanza del contatto fisico e come produrre noi stati depressivi non indifferenti. Certo, anche perché è una cosa fondamentale, non dimentichiamocelo. Assolutamente, e poi mi sembra molto bello in quanto ci darà una mano anche ad avere una sorta di sguardo nel futuro questi studi e questi argomenti che stanno trattando in maniera sicuramente molto più seria. Ma anche perché è veramente un tabù ancora oggi nella società parlare di sesso, parlare di omosessualità, di piattaforme, di incontri. Vedevo due sere fa Comizi d'amore, non so se l'avete visto, e questo documentario sociologico, l'hai visto anche? Sì. E comunque parla dell'Italia degli anni 60 ed è inquietante vedere comunque come ci sia un'ignoranza di fondo, ma non solo, anche proprio una riluttanza a parlare del sesso, no? A parlare di queste cose. Quindi è strano, dato che è una cosa comunque che coinvolge tutti, non vedo perché dobbiamo farci dei problemi a parlarne. Certo. Uno dei miei sogni più folli era stato fare un comizio d'amore negli anni 2000, insomma, negli anni 2020, negli anni 2030. Vedere sai che ci avevo pensato anch'io, deve essere bellissimo, riproporre più o meno le stesse domande e vedere se ci sono le stesse risposte. Sì, sono fantastico. E quindi ora dici, tutte queste domande che si fanno negli appuntamenti online, nelle piattaforme, tipo appunto con chi vivi, tutte queste domande anche un po' personali per vedere le tue attitudini quotidiane ai tempi del Covid, a che livello della conversazione arrivano? Cioè tipo, ciao, come ti chiami? Cioè vengono prima o dopo il segno zodiacale tipo? Allora, il segno zodiacale stranamente è anche poco richiesto ormai negli ultimi tempi, però Una volta andava forte. Diciamo che le domande sul Covid vengono dirette se si pensa ad un incontro, il passaggio dal virtuale al reale. Ah, quindi perché ora giustamente c'è anche l'ipotesi di non passare al reale. C'è l'ipotesi di non passare al reale, per esempio magari si creano delle situazioni in cui le persone tenderebbero volendo a fare soltanto texting o sesso telefonico o in video senza poi vedersi o facendo una selezione delle persone che si vedono, perché magari uno fa dei rischi calcolati e sceglie invece di una persona a settimana una al mese. Beh, da approfondire, dalla prossima settimana, senza ombra di dubbio. Da approfondire, assolutamente, curiosissimo proprio. Perché l'Italia da questo punto di vista si è dimostrata con il problema dei congiunti, l'uso ottocentesco di alcune, diciamo, idee sulla famiglia e sui rapporti umani, mentre invece in Olanda è stato proprio l'argomento del sesso è stato trattato in maniera più aperta, tipo ai single di trovarsi una sessualità più stabile per non incontrare troppi partner in questo periodo, però è stato un problema aperto, più aperto di quanto invece in Italia si è cercato di far finta di non vedere e fare le distinzioni tra affetti stabili e affetti non stabili, alcune problematiche abbastanza obsolete sulle famiglie non famiglie, se gli amici o alcune famiglie non tradizionali che non si trovano rappresentate in queste definizioni. Certo. Bene, bene, can't wait, veramente. Quindi allora direi che per oggi siamo in chiusura. Grazie Anca, ma tanto Ci risentiremo presto. Sì, grazie, grazie. Applausi, applausi dalla camera, arrivano. Sono i fan, ci sono i fan. Ci sono i fan, ci sono i fan. I fan di Anca. I fan. Sono una bimba di Anca. Eh sì, ora ci sarà il fan group. Cioè, esploderà il fan group, non è che ci sarà. Esploderà, esploderà. E quindi... ci risentiremo presto, grazie per oggi, poi magari ritoccheremo anche con calma appunto il tuo ambito di studi, perché è veramente interessantissimo e credo che ci siano anche tantissime cose che possono essere attualizzate sia in Italia che in tutto il resto del mondo. Comunque tanto il fascismo magari non si chiama più così, ma ha assunto delle forme diverse, ma sempre, sempre di quello si parla. Sì, su questo sì. Sono d'accordo, non dobbiamo aspettare tutti gli altri elementi per iniziare a preoccuparci, non dobbiamo vedere, deve essere lo stesso fascismo con gli stessi criteri degli anni 20 per averne paura. Esatto, esatto, per sviluppare fobie. Tanto per rimanere in tema, certo. Esatto. Ma quindi... se non ho capito male, Nicola, avevi un pezzo per tenere alta, diciamo, l'attenzione per quanto riguarda gli eventi di Minneapolis di cui abbiamo citato. Esatto, esatto, dato che appunto non abbiamo parlato direttamente, anche se secondo me indirettamente poi abbiamo toccato degli argomenti che a parte ne abbiamo anche parlato per un esatto, periodo. Esatto, esatto, sì. Esatto, esatto. Quindi alla fine ci siamo finiti comunque sull'argomento. Inevitabilmente. Inevitabilmente. Quindi io finirei con un gran pezzo e niente, ci sentiamo la prossima settimana. Un saluto a tutti e grazie agli ascoltatori. E, ciao, godetevi questo pezzo. Ciao a tutti. No changes. Wake up in the morning and I ask myself, is life worth living? Should I blast myself? I'm tired of being poor and even worse, I'm black. My stomach hurts, so I'm looking for a purse to snatch. Cops give a damn about a Negro. Pull a trigger, kill him, he's a hero. Get it to the kids, who the hell cares? One less hungry mouth on the welfare. First ship him, don't let him deal with brothers. Give him guns, step back, watch him kill each other. It's time to fight back, that's what Huey said. Two shots in the dark, now Huey's dead. I got love for my brothers, but we can never go nowhere. Let's be shared with each other. We gotta start making changes. Learn to see me as a brother instead of two distant strangers. And that's how it's supposed to be. How can the devil take a brother if he's close to me? I let it go back to when we played as kids, but then it changed. That's the way it is. Come on, come on. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. I want to be, only way I've been practicing my whole life to live my life is to be responsible for what I do. I don't know how to be responsible for what every black male did. I don't know. Yes, I am gonna say that I'm a thug. That's because I came from the gutter and I'm still here. I see no changes, all I see is racist faces. Misplaced hate makes disgrace to racist. We under, I wonder what it takes to make this one better place. Let's erase the waste. Take the evil out the people, they'll be acting right. Cause both black and white and smoke tonight. And the only time we chill is when we kill each other. It takes guilt to be real, time to heal each other. And although it seems evident, we ain't ready to see a black president. It ain't a secret, don't conceal the fact. The penitentiary's packed and it's filled with blacks. But some things will never change. Try to show another way, but staying in the dope game. Now tell me what's a mother to do. Being real don't appeal to the brother in you. You gotta operate the easy way. I made a G today. But you made it in a sleazy way. Selling back to the kids. I gotta get paid. But hey, well that's the way it is. Come on, come on. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. Hear me. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. You gotta make a change. Rap star and actor.